I seminatori d'odio di cui hai parlato, ma adesso, al di là della, ripeto, della definizione, ci sono, puoi indicare Capezzone, non dico nomi e cognomi, ma insomma, i seminatori d'odio oggi in Italia, quando Capezzone parla, di seminatori d'odio, a chi si riferisce? Parlo di cose precise e semplici, non voglio scagliare accuse grandiose, sto a un fatto preciso e piccolo. Ah, si impedisce a Dell'Utri di parlare? Mezz'ora dopo Di Pietro dice: bene, bisogna zittirlo in tutte le piazze. Poi Dunque, Di accade una Pietro è un cosa. seminatore d'odio. No, io dico che in quella circostanza non ha seminato amore né rispetto, mi pare che abbia seminato una cosa molto pericolosa anche per lui. Ancora, succedono le cose da parte dei grillini alla festa dell'unità e Beppe Grillo dice, aspetta che piglio la citazione, questo è solo l'inizio, devono rendersi conto che è finita, si blindino con i poliziotti antisommossa, chiamino Maroni all'esercito. Ora, io non so se Dunque, Di Grillo Pietro e sono. Grillo sono due seminatori No, io d'odio. non dico che sono seminatori di odio, dico che in Eh queste beh. circostanze hanno seminato odio, in queste Sì. circostanze, e mi permetto di mettermi anche dal loro lato, ma io non condivido le loro opinioni, non condivido le loro istanze, ma potranno sostenerle senza fare e dire queste cose? Forse converrebbe anche a loro.